e mi auguro che ci possa essere un cambiamento. Siamo chiamati a non dimenticarci che nella democrazia, nella nostra Costituzione, la parola chiave è la parola responsabilità da parte di tutti, proprio da parte di tutti. E credo che in tutti i contesti ci sono delle richieste che sono anche corrette, puntuali, poi ci sono anche delle storture. Cerchiamo di trovare il modo di unire le nostre forze per diventare una forza di cui il Paese ha veramente tanto bisogno. Viviamo una situazione di povertà sia materiale che culturale impressionante. E soprattutto abbiamo una questione del mondo giovanile di cui tanto si parla, tutti si preoccupano ma poi non se ne occupano a sufficienza. 2.300.000 giovani che sono allo sbando, hanno studiato, non trovano lavoro, sarà un problema centrale. Noi abbiamo tradito la nostra Costituzione, questo è il vero tradimento, perché non è del tutto applicata. Allora parliamo di questo per dare più dignità, lavoro, speranza alle persone e per respingere facili demagogie, delle scorciatoie. No, il fascismo, queste forme di razzismo che ritornano, non sono folklore, non sono delle tante cose, sono dei segnali che devono porci delle domande e soprattutto dobbiamo fare in modo di rimettere la persona al centro, la persona al centro. La povertà è un reato proprio rispetto alla civiltà del nostro paese, abbiamo una situazione sicuramente non semplice e non facile. Quali sono i segni di fascismo e razzismo che la preoccupano di più? Beh, quello che è successo, quello che si vede, quello che si tocca un pochettino con mano. C'è una degenerazione dei linguaggi che è impressionante e la degenerazione dei linguaggi, perché c'è una violenza a volte verbale che poi si può tradurre, si è già tradotta, attenzione che può moltiplicarsi in una violenza dei fatti. Alcuni episodi che sono successi non sono di poco conto, devono interrogarci. Qualcuno dice sono degli episodi, ma sono dei segni importanti. E chi di noi vive di fatto attraverso l'Italia, nei vari contesti, nelle varie periferie, nei vari luoghi, si tocca con mano un po' questo fermento. Bisogna accogliere anche un grido di disperazione di molta gente, perché quando non hai lavoro, vivi in condizioni di povertà, ti manca una serie di servizi, allora è facile, no, arrivare lì, oppure per altre ragioni, per garantire quelli che vorrebbero altro a proprio privilegio. Tutti poi usano una parola che a me disturba moltissimo, perché ce l'hanno rubata, la parola legalità. Perché la legalità è diventata l'idolo del nostro paese, che tutti dall'una e dall'altra parte stanno usando. Dimenticandoci che la legalità è lo strumento, il mezzo, non è il fine, per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia sociale. Per non dimenticarci che mai come in questo momento mafia e corruzione nel nostro paese vanno fortemente a braccetto. Per non dimenticarci veramente che la legalità non può essere solo una parola educativa, deve essere una parola di vita, non una parola astratta. E legalità ha l'obiettivo della giustizia, che vuol dire lavoro, vuol dire casa, vuol dire servizi, vuol dire salute. Queste sono le risposte che devono essere date alla storia del nostro paese. Per evitare le scorciatoie, se no sono i facili populismi che hanno presa. Però lo dico in modo trasversale, perché io lo chiedo a tutte le forze politiche, nessuna esclusa, perché tutte hanno avuto delle responsabilità, dei meriti e delle responsabilità. O si diamo una mossa, eccetera. Noi abbiamo tradito la nostra Costituzione. Credo che anche le nostre associazioni devono interrogarsi, che forse abbiamo difeso i diritti, fianco delle responsabilità, abbiamo difeso troppo poco i diritti della gente. Secondo lei l'ipotesi di un governo 5 Stelle Lega garantirebbe la tenuta democratica dell'Italia e il rispetto della Costituzione? Io non sono in grado di entrare in merito a questo, poi non è neanche il mio compito. Ben venga chiunque governa rispettando la nostra Costituzione, mettendo al centro i bisogni reali delle persone. Credo che chi ha un ruolo politico deve mettersi nei panni degli altri per capire dove sta la fatica, la fragilità, le povertà. Vuol dire riconoscere il male per non voltarsi dall'altra parte, per chiamarlo per nome. Ecco, ben venga chiunque che rispetta la Costituzione, rispetta l'attenzione di mettere al centro la persona, che non si dimentica che l'inclusione è la via maestra del cambiamento.